reportage. Giornate europee dello sviluppo. L'Europa punta al target dello 0,7% del PIL. Di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles. Oggi vi raccontiamo quello che l'Europa fa per gli aiuti allo sviluppo. Ci troviamo alle giornate europee dello sviluppo, una 2 giorni nei quali i paesi europei e africani e comunque i paesi sottosviluppati del resto del mondo si confrontano per capire come migliorare questa partnership, come migliorare questa cooperazione e anche come aumentare ulteriormente i target fissati dalla stessa Europa. Parliamo dello 0,7% del PIL, un target che a parte Svezia, Lussemburgo, Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna, molti altri paesi non riescono a raggiungere e l'Italia è in fondo alla classifica. Ma ora vi raccontiamo tutto. Voilà ma première page qui arrive. Nel suo discorso inaugurale alle giornate europee dello sviluppo, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker dimentica la prima pagina del suo discorso, suscitando in modo calcolato da vecchia volpe qual è l'ilarità dei presenti. Quando finalmente la pagina gli viene portata, Juncker rileva che ci sono stati progressi significativi da parte europea nel settore degli aiuti allo sviluppo, ma resta ancora molto da fare. Juncker punta il dito in particolare contro la riduzione di questi aiuti operata da diversi paesi comunitari negli ultimi anni. Il presidente della Commissione ne approfitta per riaffermare l'impegno europeo a destinare lo 0,7% del PIL allo sviluppo e alla cooperazione internazionale. Il presidente è là e quindi possiamo cominciare in buon ordine. Sarà intanto però al di là delle parole e delle decine di incontri che costellano la 2 giorni di summit, 2 punti fermi emergono. Per diversi commissari europei, anche se non tutti, gli European Development Days appaiono poco più che una fugace passerella annegata nella girandola di incontri quotidiani da rispettare all'interno della sede del Berlaymont. Un'ora al massimo, poi si torna a Ron Poinchumann. Il secondo punto fermo, se guardiamo agli aiuti concreti allo sviluppo, ci racconta che se è vero che l'Europa resta il primo donatore mondiale, è anche vero che i paesi comunitari stanno registrando enormi difficoltà a rispettare l'obiettivo minimo dello 0,7%. Al momento solo Svezia, Lussemburgo, Danimarca e Gran Bretagna sono in linea col target. L'Italia, sotto lo 0,2%, naviga nella parte bassa della classifica. I ministri degli esteri europei a fine maggio non sono riusciti ad accordarsi per una data vincolante sul raggiungimento di questo obiettivo, in vista della conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo in programma ad Addis Abeba. Ma cerchiamo ora di approfondire la strategia della Commissione europea con Roberto Ridolfi, direttore per lo sviluppo e la crescita sostenibile alla Direzione Sviluppo e Cooperazione. Ridolfi parte dall'importanza del 2015, quale anno chiave per lo sviluppo sostenibile. Quest'anno abbiamo 3 stop. Uno ad Addis Abeba, il secondo a New York in settembre con gli SDGs e il terzo a Parigi. Sono legati. Il fallimento di uno scatena il fallimento degli altri, ma non è detto che il successo del primo automaticamente garantisce il successo anche agli altri. Quindi. Qual è la sua personale previsione? Ma guardi, io sono 20 anni che giro il mondo, faccio il cooperante, l'ambasciatore dell'Unione Europea. Se non fossi ottimista avrei cambiato lavoro. Quindi la mia previsione è sì, sì e sì. A luglio ci sarà un accordo, già le basi ci sono. A settembre l'accordo è quasi fatto e a Parigi dobbiamo assolutamente, se abbiamo un minimo di cervello e di responsabilità, trovare un accordo. Se dovessi spiegare in termini semplici cosa fa l'Unione Europea per la cooperazione. Ma guardi, in 3 parole, prima di tutto partnership, cioè il partenariato. Noi quando facciamo un'azione in un paese, l'Uganda, facciamo l'azione su quei settori e in quelle modalità che sono discusse con il governo locale, governo democraticamente eletto, perché poi ci sono situazioni in cui non abbiamo una cooperazione bilaterale ma soltanto tematica. Quindi la cooperazione bilaterale paese per paese è importante. Abbiamo fatto una decisione di mettere più risorse nei paesi molto molto poveri e meno in quelli medio poveri. Il secondo aspetto è quello regionale. L'integrazione regionale è un po' il nostro best selling item. Cioè noi come Unione Europea possiamo dire all'Africa dell'Est: guardate che fare commercio senza dazi, senza dogane e senza barriere conviene. E il terzo aspetto, e quindi lì c'è l'aid for trade, quindi le infrastrutture, l'energia. E il terzo aspetto è quello più tematico, in cui sviluppiamo dei temi cari all'Unione Europea, abbiamo dei valori, abbiamo degli interessi diritti umani, democrazia, il ruolo della legge, ma anche l'ambiente, il climate change, l'energia, la migrazione e quant'altro. Il bilancio, come sapete, è di circa 70 miliardi nei 7 anni 2014-2020, ma di questi 70 miliardi una parte consistente tra i 6 e gli 8 verrà usata per fare il leverage, cioè per stimolare investimenti da banche di sviluppo, banche private e investitori privati. Questo che noi chiamiamo il blending. Quali sono le aree dove maggiormente cooperate nel mondo? L'Africa subsahariana, gli LDC in generale, siano essi Bangladesh o in America centrale, e in generale quindi i paesi che sono definiti al di sotto dei parametri OCSE per quello che riguarda il reddito pro capite. Però ci sono anche cooperazioni regionali, transfrontaliere, e abbiamo diversi strumenti per farlo. Uno è il Fondo Europeo di Sviluppo, il FED, che agisce con i paesi ACP, Africa, Caraibi, Pacifico, e gli altri strumenti sono il DCI, Development Cooperation Instrument, Human Rights for Democracy e in ultimo gli altri strumenti per il vicinato. Abbiamo paesi come la Gran Bretagna, Lussemburgo, la Svezia che sono sopra il target, paesi come l'Italia sono invece ampiamente sotto il target. Voi siete delusi da questa cosa? Delusi non è la parola esatta. Diciamo che noi abbiamo come dire, l'obbligo morale ma anche istituzionale di spingere tutti i 28 a raggiungere questo obiettivo. Lei avrà visto le conclusioni del Consiglio sull'offerta da portare appunto ad Addis. E non c'è alcuna scadenza. Ma la scadenza è stata data come la prospettiva temporale di scadenza degli obiettivi che si... Però siamo abbastanza in là. Beh, in là, in là. Io direi che una risposta a questo è, primo, ci sono più paesi oggi che hanno lo 0,7 di 10 anni fa. Secondo, gli altri che non stanno a 0,7 stanno comunque più alti. Il caso dell'Italia non lo conosco e quindi non le so dire, ma dal punto di vista della forza per avere uno sviluppo e una crescita sostenibili, l'ODA non è che forse un decimo di quello che ci vuole. Quindi le continuo a ripetere, il ruolo del settore privato, gli investimenti, portare gli investimenti laddove oggi non ci vanno, questo è il cuore del problema. Ma cosa ne pensano le ONG rispetto alla strategia europea negli aiuti allo sviluppo? La prospettiva in questo caso si fa più critica. Il primo punto di vista che vi portiamo è quello di Natalia Alonso di Oxfam International a Bruxelles. Europa ha sido... L'Europa è stata e continua ad essere il primo donatore al mondo in aiuti allo sviluppo, ci dice Natalia Alonso. Tuttavia gli impegni degli Stati europei a destinare lo 0,7% del PIL in aiuti non sono stati rispettati. Il 2015 doveva essere l'anno in cui questo livello sarebbe stato raggiunto. L'ultimo Consiglio europeo ha confermato l'obiettivo, ma senza precisare più entro quale anno. Dice un 0,7%, però non per quando. E all'interno degli European Development Days sono decine gli stand delle ONG internazionali venute a presentare i propri progetti e le proprie attività. Tra queste c'è anche One. Siamo qui con Valentina Barbagallo, Policy Advocacy Manager per One a Bruxelles. Voi state in qualche modo esponendo qui insieme ad altre ONG il vostro lavoro. Partiamo raccontando cosa fa One. One è un'organizzazione internazionale, una ONG, e lavoriamo per lottare contro la povertà estrema e le malattie prevenibili nel mondo. Dal vostro osservatorio chiaramente avete una visuale su quello che l'Europa fa o non fa proprio per combattere la povertà. Qual è il vostro giudizio per cominciare? Devo dire che assolutamente l'Unione Europea è sicuramente una di quelle fra tutti i donatori internazionali, soprattutto di aiuti, è sicuramente al primo posto e conduce diciamo la classifica di quelli che sono i nostri campioni. Certamente c'è sempre un margine di miglioramento, come ci piace dire, ed è questo quello per cui stiamo lavorando, spingere i nostri leader, insomma i nostri politici a tutti i livelli, quindi non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo e a livello internazionale a fare meglio. Alle European Development Days il commissario europeo alla cooperazione internazionale Neven Mimica ha firmato un accordo per un fondo regionale di cooperazione con i paesi dell'Africa sudorientale e con quelli dell'area dell'Oceano Indiano fino al 2020. Il fondo ammonta a un totale di oltre 1 miliardo di euro. Ma cosa resta di queste giornate europee dello sviluppo? Al di là delle parole e delle promesse fatte, vogliamo portarvi le voci dei giovani leaders che hanno animato numerosi dibattiti con i rappresentanti istituzionali. Per cominciare, ascoltiamo il messaggio di Carmen Monge, 21enne paraguayana impegnata come attivista nella lotta contro il cambio climatico. Il mio messaggio per i leader è: preoccupatevi in primis del futuro. La vita è il futuro, non solo nei soldi, né il petrolio. Noi giovani abbiamo cose interessanti da dire. Dobbiamo impegnarci in azioni concrete contro il cambio climatico. Sull'Europa io credo che abbia contribuito molto sul clima, ma deve sentire che questa non è una sfida solo sua, europea, è una sfida mondiale. L'Europa deve essere di stimolo anche agli altri paesi, ci dice. Estimular a los demás países a contribuir de alguna manera a lo que serían los índices. E sempre in tema di clima e sostenibilità, il messaggio di Lia Vaila, 25enne tedesca, cofondatrice del progetto Glow, startup sociale incentrata sulla sostenibilità energetica. I think everyone knows that sustainable energy is a... Penso che tutti sappiano che la sostenibilità energetica è un tema molto importante, ci dice Lia Vaila, ma penso anche che i leader mondiali debbano essere più coinvolti. I giovani di tutto il mondo devono lavorare assieme al proposito. Sull'Europa penso che possa essere il catalizzatore di questo movimento giovanile. L'Europa ha i soldi, fornisce aiuti e può aiutare le persone a portare avanti i propri progetti, aiutandosi a vicenda. Empowering people to help themselves or to help each other. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.